Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi parleremo molto di prospettive e previsioni di crescita economica, sia perché le ha diffuse l'Europa, la Commissione Europea, sia perché ne ha parlato oggi Mario Draghi inaugurando l'anno accademico dell'Università Cattolica a Milano, e sia perché poi è arrivata anche l'Istat per quello che riguarda l'Italia con le previsioni. Tutte, devo dire, sia Istat che Commissione Europea, le riviste leggermente a rialzo. Quest'anno, secondo l'Istat, cresceremo dello 0,9% contro lo 0,6% previsto a maggio. A questo punto forse l'1% non è più difficilmente raggiungibile, e 1,5% nel 2016. La ripresa, dice l'Istat, si rafforza grazie ai prezzi del petrolio bassi e una domanda interna. Migliorano le condizioni di credito dei consumi, i rischi possono arrivare da un rallentamento della domanda globale, che come sappiamo si chiama soprattutto rallentamento dell'ex locomotive BRICS, Brasile, Russia, India e Cina. Stima l'Istat un deficit al 2,6% nel 2015 e al 2,3% nel 2016, quindi questo ci lascerebbe abbastanza tranquilli. La stima del 2,6% è anche quella, che è la cosa più importante, dell'Unione Europea, tant'è che, come poi ascolteremo, il commissario europeo Moscovici dice da questo punto di vista, nonostante le prospettive di crescita positive, c'è un peggioramento del deficit strutturale italiano, nel senso che noi avevamo promesso, tra virgolette, che avremmo fatto 2% quest'anno e faremo 2,6%, quindi circa mezzo punto percentuale. Di questo parleremo come promesso anche dei soldi che la Chiesa Cattolica ha dallo Stato italiano, e soprattutto dell'8 per mille, un meccanismo che la Corte dei Conti ha definito sempre più gravoso per l'erario. La quota IRP a favore delle confessioni religiose continua ad incrementarsi, vi arriveremo. Anche perché ieri molti di voi avevano detto: ma come fa a dire che quanto si stanno rivelando i due libri sul Vaticano non riguarda noi, nel caso specifico la famosa casa di Bertone? Poi magari un pezzettino lo leggo di questa intervista. Oggi obiettivamente non c'è molto il senso del ridicolo nel cardinale Bertone, però è è a partire dallo Stato Vaticano, e quindi quelli sono fatti suoi. Altra cosa è vedere come vengono utilizzati i soldi e i trasferimenti dello Stato italiano, quelli sono fatti anche nostri. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, volete che... No, Bertone non lo faremo mai entrare nella classifica della top 5. Attenzione, anche quanto lui rilascia oggi in un'intervista al Corriere della Sera, dice ha pagato con i propri risparmi, gli appartamenti sono di proprietà del Governatorato Vaticano o dell'APSA, vengono ristrutturate a cura delle amministrazioni con spese messe in bilancio anno per anno. L'appartamento che mi è stato assegnato mi è stato comunicato che quell'anno non era messa a bilancio alcuna somma per la ristrutturazione, avrei dovuto sostenere io le spese, poi mentre avanzavano i lavori arrivavano le fatture da pagare, fu invitato dal governatorato a saldare e infatti ho versato al governatorato la somma dal mio conto. E poi il governatorato mi ha comunicato una spesa sui 300.000 euro, ho pagato con i miei risparmi per un appartamento che non è di mia proprietà e resterà al governatorato. i 200.000 euro versati dalla Fondazione Bambin Gesù, gli chiedono, così dicono, solo dopo ho saputo che erano state presentate fatture anche alla Fondazione. Io non ho visto nulla. Oh, Bertone, massimo rispetto, a noi ricorda molto Scajola sta cosa, ma com'è l'ex ministro non sapeva che gli avessero comprato una casa? Lei non sa che qualcuno versa 200.000 euro, che qualcuno presenta delle fatture alla Fondazione Bambin Gesù, che paga 200.000 euro per il suo appartamento? Faccio notare che la Fondazione Bambin Gesù quei soldi doveva utilizzarli per i bambini, non per Bertone. Io non ho visto nulla, escludo in modo assoluto di aver mai dato indicazione o autorizzato la Fondazione ad alcun pagamento. Quindi, cioè, praticamente, secondo la ricostruzione di Bertone, le fatture vengono mandate alla Fondazione Bambin Gesù, la quale paga per un totale di 200.000 euro senza avvisare Bertone, senza che Bertone gliele avesse mai detto, così, di sua sponte, per un eccesso di zelo. Bah. E poi la frase, a mio avviso, così, dove uno dovrebbe avere anche il senso delle volte della misura, a maggior ragione se sei un cardinale, se sei un salesiano, quindi hai anche un dovere nei confronti dell'austerità, non voglio dire della povertà, ma dell'austerità, sì. Il cardinale nega poi di vivere nel lusso. L'appartamento è di 296 metri quadri e non ci vivo da solo. Ah, dice, perfetto, lo dividerà con altre persone? Sì, con tre suore che lo aiutano nelle faccende domestiche. Il terrazzo non è mio, è risanato, ma è quello condominiale. Vabbè, faccio notare che oltre che 300 metri quadri, raccontare in questo paese che non sono lusso perché hai tre suore che l'aiutano nei lavori domestici e hanno bisogno delle stanze, non mi sembra una gran spiegazione. Bertone, abbia pazienza, non è l'unico, ha ragione nel ricordare che non è l'unico, perché ci sono gli appartamenti di lusso riservati dal Vaticano ai cardinali. Nella palazzina del Sant'Uffizio abitano quattro cardinali, nel quartiere di Borgo Pio c'è la residenza del cardinale americano William Levada, una residenza da 520 metri quadri. È interessante questo William Levada perché qualche giorno fa lo hanno arrestato alle Hawaii, dove guidava in stato di ebbrezza. Ora io voglio capire una cosa, ma che ci fa il cardinale Levada, io non sto capendo niente, con 520 metri quadri nel quartiere di Borgo Pio, ma nel frattempo è alle Hawaii e lo arrestano pure perché è ubriaco, e immagino non fosse dovuto, diciamo, alla funzione religiosa. E poi c'è il cardinale canadese Marc Houlet, che ha circa 500 metri quadri a ridosso di Via della Conciliazione, e il cardinale Sergio Sebastiani, che ha 420 metri quadri. Tutti questi, ma non sono fatti nostri, dovrebbero ricordarsi che il loro massimo riferimento terreno, cioè il Papa, vive in 50 metri quadri a Santa Marta. Certo, verrebbe voglia di mettere sta roba in classifica quando ti accorgi che il cardinale australiano George Pell, quello che è stato chiamato per mettere in ordine i conti della curia, ha speso tra luglio 2014 e gennaio 2015 501.000 euro, mezzo milione di euro di spese. Ha speso tra l'altro 47.000 euro per mobili e armadi, 2.500 euro in sartoria, 4.600 euro per un sottolavello. Ma com'era fatto questo sottolavello? Anche i costi per i voli, è riuscito a spendere 1.300 euro per un Roma-Londra, ma come ha volato? 1.230 euro per un volo per Monaco. Però se c'è un soldi del Vaticano, ripeto, è una, come si può dire, non una partita di giro, ma insomma è una responsabilità del Vaticano di come gestisce i suoi soldi, e dei fedeli che versano i soldi al Vaticano, dei fedeli che hanno nel Vaticano il loro riferimento religioso, onestamente. Altra cosa, ma ripeto, vi arriveremo, è l'8 per 1000. Le notizie di carattere internazionale: Facebook è volata a Wall Street oggi, ha preso un rialzo di oltre il 6%, per la prima volta ha superato i 300 miliardi di dollari di capitalizzazione, ha superato un gigante come General Electric. Chi le avrebbe mai detto solo 10 anni fa che Facebook capitalizzava in borsa più di General Electric? Praticamente è entrata nel club dei gruppi che capitalizzano più di 300 miliardi in borsa a Wall Street, dove sono presenti già Apple, Google, Microsoft, ExxonMobil, Berkshire Hathaway e Amazon. Noterete che a parte ExxonMobil e Berkshire Hathaway, tutti gli altri sono gruppi che appartengono al mondo di quella che una volta si chiamava la New Economy, comunque dell'information technology, dei social network, chiamateli come volete, ma non, diciamo, non fanno né finanza né manifattura di carattere tradizionale. Nel frattempo restiamo in tema di social networks e della rete, perché Expedia ha raggiunto un accordo per acquistare HomeAway, è un sito di annunci di case in vacanza in affitto, e con questa operazione, che ha pagato quasi 4 miliardi di dollari, Expedia vuole lanciare la sfida a Airbnb, che è il sito più popolare per affittare case, per mettere in affitto la propria casa come se fosse un bed and breakfast, e dall'altra parte affittare case in giro per il mondo. Dicevo, quasi 4 miliardi l'intera operazione. Vediamo l'Europa. A sorpresa scendono gli ordinativi dell'industria tedesca a meno 1,7%. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble oggi è tornato a parlare, ha detto che il pareggio di bilancio vi sarà anche nel 2016. La situazione economica della Germania è tale da potersi permettere questa la sfida dei profughi e dei migranti. Nonostante questa sfida, siamo in una situazione tale da potercela permettere, ha aggiunto Schäuble. Per quello che riguarda lo scenario economico, su questo è intervenuto anche Mario Draghi, ma lo commenterò tra un attimo, perché prima vorrei ricordare due cose, e mi riferisco ancora due notizie. Da un lato alla proposta arrivata oggi dal commissario dell'INPS, dal numero uno dell'INPS, Tito Boeri, di una riforma dell'INPS in 16 articoli che vanno a riformare a 360 gradi il sistema previdenziale e assistenziale. Si va dai tagli a 230.000 famiglie ad alto reddito che si vedrebbero ridurre i trasferimenti assistenziali loro destinati, perché dice l'INPS che c'è una cattiva selettività negli strumenti esistenti, poi ricalcolare tutti i vitalizi attraverso il contributivo, mi sembra il minimo. I titolari di vitalizi elevati viene chiesto di convergere al trattamento che avrebbero avuto applicando le regole del sistema contributivo e versamenti per i loro vitalizi, cioè agli onorevoli che beccano il vitalizio viene proposto di utilizzare lo stesso metodo di calcolo di noi comuni mortali che andiamo in pensione con il contributivo. E ancora propone l'INPS un reddito minimo da 500 euro per gli oltre 55 anni, lo chiama sostegno di inclusione attiva, non per cassa ma per equità. E poi le uscite a partire dai 63 anni per andare in pensione, uscite diciamo così agevolate, gli scivoli, ma con perdite sull'assegno pensionistico che non possono essere superiori al 10% dell'assegno. E poi un incauda venenum: armonizzare le pensioni dei sindacalisti con distacco o aspettativa dal settore pubblico al trattamento riservato agli altri lavoratori. I dirigenti sindacali, spiega il documento dell'INPS, non potrebbero così più farsi versare contributi dall'organizzazione a condizioni molto più vantaggiose di quelle riservate alla valorizzazione a fini pensionistici dei contributi versati dagli altri lavoratori. Traduco: se avvenisse così, i dirigenti sindacali la smetterebbero di percepire una pensione a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei loro rappresentati. Mi sembrerebbe il minimo. Tu rappresenti i lavoratori, avrai il calcolo della pensione esattamente come i lavoratori che rappresenti. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, una notizia che riguarda in parte anche noi, il mercato degli investimenti pubblicitari. Lo stima la Nielsen oggi è cresciuto dell'1% nei primi 9 mesi, ma ha avuto una fiammata nel mese di settembre più 3,8%. Dicevo, al di là di questi dati, mi fate notare che non ho ricordato l'andamento della borsa. C'è Prismian che cede, dopo i conti, meno 3,77, Saipem meno 3,44, Monte dei Paschi meno 2,30, come il Banco Popolare, Enel meno 1,70, Telecom meno 1,5% come CNH, bene invece Mediolanum più 4%, Azimut più 3%, Campari più 1,90, Iux più 1,5 come Luxottica, l'1,30 guadagna Moncler e l'1,12 Atlantia. Allora, primo tema, la gruppo, la raffica di dati economici che arrivano dalla Unione Europea e anche e soprattutto dall'Istat. con ordine. Partiamo dalle stime europee, anzi partiamo da Mario Draghi all'Università Cattolica, che ha detto per quello che riguarda il quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, delle singole banche nazionali dell'euro, a dicembre valuteremo, daremo un primo giudizio sull'efficacia del programma. Siamo di fronte a una situazione in cui la dinamica dei prezzi è molto debole. Il quadro macroeconomico è ancora incerto. Per questi motivi il Consiglio si è impegnato a riesaminare il grado di accomodamento monetario nella prossima riunione di dicembre. Il programma attuato finora è stato senza dubbio efficace. Dobbiamo tuttavia valutare se, con l'indebolirsi dell'economia mondiale, esso sia anche efficace nel contrastare le spinte avverse che potrebbero ostacolare un ritorno alla stabilità dei prezzi nel medio termine. E poi sempre Mario Draghi sulla Grecia ha rivendicato la correttezza della strada intrapresa, ha detto altre strade possibili avrebbero contraddetto il principio che vuole che la Banca Centrale Europea presti a banche solvibili e solo a quelle. E poi ha aggiunto la crisi in generale ha reso evidenti gli squilibri che si erano andati accumulando negli anni precedenti, certamente a causa dei gravi errori nelle politiche economiche degli stati nazionali, ma anche a causa di manchevolezze nell'architettura istituzionale europea. E poi un Draghi che è molto più umano di altri banchieri centrali nazionali, perché c'è un passaggio del suo intervento, chiaramente parlava anche alle matricole oltre che agli studenti dell'Università Cattolica. Ha detto: il numero inaccettabile dei disoccupati, tra cui molti, troppi, sono giovani, è stato il prezzo pagato. Tutti, ma specialmente le generazioni più giovani, hanno pagato un prezzo molto elevato della crisi di questi anni. Una crisi economica europea durata troppo, da cui stiamo solo ora gradualmente emergendo. Una successione di situazioni critiche che hanno sottoposto a notevole prova la solidità dell'Unione Monetaria Europea. Tutti, ma specialmente le generazioni più giovani, hanno pagato un prezzo molto elevato. La crisi ha reso evidenti gli squilibri che si erano andati accumulando negli anni precedenti, certamente a causa dei gravi errori nelle politiche economiche degli Stati nazionali, ma anche a causa delle manchevolezze nell'architettura istituzionale europea. Queste hanno poi contribuito a rendere lenta e macchinosa la risposta della politica economica alla crisi stessa. Il numero inaccettabile dei disoccupati, tra cui molti, troppi, sono giovani, è stato il prezzo pagato. Da Draghi invece alla... oggi c'è anche la nota della Banca Centrale Europea, c'è il bollettino economico, dice che la ripresa procede nell'area euro, il terzo trimestre segnerà un più 0,4% come quello precedente. C'è un'attenzione della Banca Centrale Europea sulla flessibilità concessa dalla Commissione Europea anche all'Italia. E poi gli stress test nel 2016 partiranno a febbraio su 39 banche dell'area euro. Fra le italiane ci saranno oltre Intesa San Paolo e Unicredit anche Monte dei Paschi, Ubibanca e Banco Popolare. Speriamo che funzionino un po' meglio, diciamo, di quelli ultimi che hanno visto penalizzare molto le banche italiane. E per esempio non si sono accorti di nulla su quanto stava avvenendo in Deutsche Bank, che a noi risulta essere ancora piena di derivati, ma non ce l'ho con Deutsche Bank, però insomma. Comunque non voglio far polemica sugli stress test. Oggi andiamo avanti. L'Unione Europea nelle sue stime sulla crescita, il PIL dell'area euro quest'anno dovrebbe crescere dell'1,6% e dell'1,8% l'anno prossimo, il che vuol dire che noi comunque resteremo soprattutto quest'anno sotto la crescita media, perché se anche facessimo 1% o 0,9% come stimato oggi saremmo sotto. L'inflazione resterà bassa allo 0,1% quest'anno e all'1% nel 2016. Ascoltiamo questo passaggio del commissario europeo Moscovici. La ripresa economica è là. La ripresa economica è in atto. Continuerà nel 2016 e nel 2017, anche se i motori sono diversi rispetto ai trimestri precedenti. Continua il miglioramento della situazione dei conti pubblici dei paesi europei e anche di quella del debito nel 2016. La ripresa è molto più moderata che in passato, ma ha resistito nonostante le recenti incertezze. Dovrebbero però cominciare a farsi sentire gli effetti del rallentamento dei mercati emergenti e il calo marcato del commercio internazionale degli ultimi mesi. Inoltre, sono aumentati i rischi che pesano sulla crescita sia per il peggioramento del contesto generale che per la situazione geopolitica internazionale. La ripresa economica quest'anno è stata trainata da una combinazione di fattori, tra i quali la debolezza del prezzo del petrolio e un tasso di cambio favorevole dell'euro rispetto all'anno scorso. Infine, il programma della BCE ha permesso di migliorare la situazione di finanziamento nella zona euro. Il costo del denaro resta basso, sia per le famiglie sia per le imprese. La crescita annua del credito per le imprese è tornata positiva per la prima volta dalla primavera 2012. La liquidità supplementare fornita dal programma della BCE è di stimolo per le banche a prestare denaro in misura maggiore. Ainsi, de son côté, les banques ont prêté davantage. Restiamo per un attimo sull'Europa, poi ascolteremo anche Moscovici sull'Italia, le previsioni Istat, Renzi sulle regioni e Luca Zaia, presidente del Veneto, nostro ospite questa mattina con 24 Mattino Attenti a Noi Due, con Alessandro Milan e Oscar Giannino. Professor Quadro Curzio, buonasera. Buonasera. Bentornato. Alberto Quadro Curzio, economista, presidente dell'Accademia Nazionale dell'Incei, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, mi sembra di poter dire che a questo punto, è vero che siamo in finale d'anno, ma la cosa più importante, professore, oltre alla stima sull'anno, è anche l'aver rivisto, mi sembra, la stima per l'anno prossimo tutta in crescita a livello di area euro. Sì, non c'è dubbio, ormai l'euro, l'area euro si avvicina a quel fatidico 2% di crescita che è stata una chimera per molti anni. Oggi forse siamo alle viste di una ripresa normale, anche se devo dire che per recuperare tutto il terreno perso durante i 7 anni di crisi una qualche ulteriore accelerazione potrebbe essere gradita assai. Ma lei non teme, per restare ancora per un istante sui temi complessivamente dell'area euro, che il quantitative easing, quindi lo stampaggio di moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato, possa generare la trappola della liquidità nell'area euro? C'è un eccesso di liquidità che non viene impiegata correttamente per prestiti alle imprese, alle famiglie, perché non siano mutui, e genera un eccesso appunto, e quindi con un rischio bolla. Allora, la domanda è perfetta e io credo che non possiamo confidare solamente sull'efficacia di questa espansione monetaria straordinaria senza accompagnarla da una politica di investimenti adeguata, e sotto questo profilo siamo tutti speranzosi che il cosiddetto piano Juncker si muova rapidamente e che abbia effettivamente quegli effetti moltiplicativi prefigurati, che già di per sé sono abbastanza congetturali, e quindi non sappiamo bene come andrà a girare questo meccanismo. Noi continuiamo a pensare, almeno io continuo a pensare, che ci voleva una forma più incisiva di piano Juncker, mobilitando più risorse e, a mio avviso, consentendo anche che il soggetto emittente di obbligazioni potesse esso stesso fruire della liquidità della Banca Centrale Europea, che avrebbe potuto comprare queste obbligazioni finanziando un soggetto che a sua volta andava a finanziare l'economia reale in un modo prefigurato di grandi dimensioni, perché abbiamo bisogno di grandi dimensioni di intervento, non di micro interventi. Di investimenti pubblici. Esattamente, tra l'altro ricordo una volta ancora che il Fondo Monetario Internazionale ha scritto più di una volta che uno dei paesi europei che ha molto bisogno di infrastrutture ammodernate si chiama Germania, ed era la modalità con la quale il fondo richiamava la Germania a utilizzare un po' dei suoi enormi Sì, perché surplus. Questo patto di stabilità, lo ricordo a tutti, funziona. Il patto di stabilità prevedeva che tu non potessi fare troppo deficit, oltre il 3%, devi tendere al pareggio, ma che tu non potessi fare anche l'opposto, cioè troppo avanzo di bilancio, mettere troppi soldi e troppo filo in cascina, perché altrimenti crei comunque uno squilibrio. Ora, in questi anni abbiamo trattato il patto di stabilità solo per la parte che riguarda il deficit. Nessuno ha avuto il coraggio politico, in primo luogo, di dire alla Germania che non poteva continuare. Ma non perché lo diciamo noi, perché era previsto dal patto. I patti si rispettano o tutti o niente. Che non poteva continuare ad aumentare il suo surplus di bilancio. Perché vuol dire che stai tenendo troppi soldi in cassaforte, come se due fratelli, uno avesse il problema di rientrare sui debiti e l'altro, pieno di soldi, non volesse spendere per la ristrutturazione della casa o della lampadina o del tetto. Ecco, non funzionerebbe mai una famiglia e uno stabile in quel modo. Comunque, professore, dopo il metro pubblicità vorrei venire invece all'Italia, alle stime e anche a questo botta risposta di nuovo tra Renzi e le regioni italiane. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. ...17.41 minuti di nuovo in diretta. Allora, ascoltiamo anche le stime diffuse oggi per quello che riguarda l'Italia dall'Istat, dove si prevede sostanzialmente un PIL migliore delle attese quest'anno, più 0,9% contro lo 0,6% atteso inizialmente, e poi invece anche un PIL che l'anno prossimo farà l'1,4% contro l'1,3% atteso. Occupazione in crescita grazie alla spinta sulla decontribuzione, più 0,6% quest'anno, più 0,9% l'occupazione l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione che quest'anno si fermerà al 12,1%, l'anno prossimo all'11,5% e nel 2017 all'11,3%. Inversione di rotta per gli investimenti che dovrebbero tornare a salire, ma soprattutto ripartire nel 2016 con un più 2,6%, anche, dice l'Istat, per effetto delle misure di politica fiscale a favore delle imprese. Ascoltiamo il commento di Fabio Bacchini, che è responsabile degli studi Istat, intervistato dalla nostra Anna Marino. La caratteristica della crescita del triennio, che è importante ricordare, prevista dopo un periodo di recessione dell'economia italiana, è quella di essere alimentata prevalentemente dalla domanda interna, in particolare dai consumi. Quello che ci aspettiamo quindi è un quadro in cui i consumi delle famiglie cresceranno dello 0,8 nel 2015, dell'1,2 nel 2016 e continueranno con un'intensità analoga nel 2017. L'altra parte importante della crescita dovrebbe avviarsi con intensità maggiore nel 2016, riguarderà gli investimenti che aumenteranno del 2,6 nel 2016 e del 3 nel 2017. Da notare anche un dato positivo sulla occupazione e sul tasso di disoccupazione. La dinamica positiva dei consumi e quindi delle famiglie è associata sia a un miglioramento del reddito disponibile indotto anche dal contenimento dell'inflazione, sia soprattutto da un miglioramento del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è previsto arrivare all'11,3 nel 2017, in presenza di un aumento dell'occupazione in tutto il triennio di previsione. Quindi l'ipotesi è quella di uno scenario confortante per le famiglie e per il mercato del lavoro, al quale si dovrebbe associare una ripresa degli investimenti e, a partire dal 2016, anche una ripresa del ciclo delle costruzioni. Allora, professor Quadrocurzio, mi sembra che venendo all'Italia e al di là di chi critica, perché giustamente questa ripresa ancora non la vede, ripeto per l'ennesima volta, quando fai 13 trimestri di calo del PIL consecutivo, è chiaro che non ti basta lo 0,9, lo 0,6 o l'1,3% per toccare con mano la ripresa, è una media. Però mi sembra che la cosa più importante, professore, sia... che è vero che le condizioni esterne sono le migliori possibili, tassi a zero, inflazione bassa, euro, anzi troppo bassa, euro su dollaro a quota oggi 1,08, ma petrolio a 46 dollari, quindi non abbiamo inflazione importata. Però l'Istat fa notare che la vera novità è rappresentata non tanto dai fattori esterni quanto dai consumi interni. Non c'è dubbio, la domanda interna di consumo sta riprendendo e questo è estremamente importante perché era crollata in Italia, trascinandosi dietro anche molti altri settori. Si pensi per esempio all'edilizia, perché l'edilizia è molto legata anche alla fiducia. Col crollo generalizzato di fiducia dei consumi, anche l'edilizia ha fatto una marcia indietro drammatica. Inoltre gli stessi investimenti che avevano segnato il passo, anzi erano caduti in modo brutale negli anni della crisi, nell'ordine di grandezza di meno 25, stanno riprendendo in modo significativo, quindi vuol dire che le imprese vanno ad investire, a rinnovare gli apparati produttivi e nello stesso tempo la spesa delle famiglie aumenta. Tra l'altro vorrei anche notare invece che in base ai dati ISTAT la spesa delle amministrazioni pubbliche è crollata. Esattamente, sta rallentando significativamente, quindi mi pare che ci sia una serie di elementi concomitanti che il paese sta riprendendo una crescita sana, che è molto importante, e che questa crescita potrebbe anche riservarci delle sorprese migliorative negli anni a venire. Ricordiamo che il 2015 si era partiti con uno 0,6, siamo a uno 0,9, teniamo conto che 0,3 è il 50% in più, come diceva lei prima sono decimali, giustamente, però anche sui decimali si possono fare le percentuali e come tale abbiamo dallo 0,6 allo 0,9 c'è un 50% in più di tasso di crescita dal previsionale all'attuale. Sono d'accordo, quindi potremmo dare un titolo, ripartono anche i consumi interni privati, quindi gli investimenti delle imprese, i consumi degli italiani, manca ancora all'appello il pubblico. Guardate che qui non è voglia di fare deficit, la storia economica ti insegna che tu non puoi parlare di ripresa vera e propria finché non ripartono anche gli investimenti pubblici, che a loro volta generano investimenti privati, perché sappiamo come funziona. Però finché erano in parte gli investimenti pubblici, anche quelli piccoli e medi, oltre che quelli grandi, il dato di ieri su quello che hanno fatto gli enti locali in questi anni era emblematico, hanno tagliato a più non posso gli investimenti. Poi vi arriveremo, mi dica però una cosa prima, professore, anzi facciamo così, ho il traffico e poi me la dice, vorrei una sua opinione sul rapporto Stato centrale-regioni, perché insomma oggi di nuovo le regioni hanno sospeso ogni giudizio sulla legge di stabilità, nel senso che sottolineano come siano presenti in legge di stabilità tagli significativi per le regioni e quindi vogliono aspettare. C'è stata anche un botte risposta tra il Presidente del Consiglio e il Governatore Luca Zaia, questa mattina nostro ospite, e ne parliamo dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Da 1 miliardo in più, sì, ma che non è in più perché avevamo altri accordi e io che sono una persona seria ho programmato su altri budget da mia sanità, ma il miliardo in più ci viene dato con competenze in più, abbiamo quasi 2,5 miliardi di competenze in più, quindi semplicemente utilizzando l'algebra più 1 meno 2,5 vuol dire che siamo ancora a -1,5, cioè abbiamo 1,5 miliardi in meno rispetto ai budget di prima. Quando tu mi dici che devo occuparmi dei farmaci per l'epatite C che valgono 600 milioni di euro, di nuovi LEA 900 milioni di euro, di nuovi farmaci innovativi oncologici altri 500 milioni di euro, del piano vaccini altri 300 milioni di euro, allora tu devi avere la correttezza di dire gli ho dato 1 miliardo in più ma devono fare attività per 2,5 miliardi in più. Se si applicassero i costi standard in questo paese, cioè se si obbligassero tutti a non sprecare, avremmo risparmio di circa 30 miliardi di euro, non lo dico io, non lo dice l'ufficio studi della Lega, ma lo dicono autorevoli studiosi della materia. E questo era questa mattina Luca Zaia, presidente del Veneto, ospite di Alessandro Milano e Oscar Giannino a 24 Mattino. Attenti a noi due, il premier Renzi ha detto le regioni spendono meglio anziché lamentarsi. E poi sulla spending review ho detto: in Italia spending vuol dire fare tagli, sarebbe un errore tagliare pensioni, sanità o licenziare. No, non siamo d'accordo. La spending review era anche accorpare le stazioni appaltanti, creare i costi standard, casomai si risparmia sui furti, sulle mazzette, sugli sprechi, ma nessuno immagina una spending review in cui vai a chiudere e lasciare per strada persone. Si può fare una spending review su quello che è il costo dei beni intermedi, lo spieghiamo con molta modestia al Presidente del Consiglio. La pubblica amministrazione spende ogni anno su 860 miliardi, che costa circa 150 miliardi di acquisto di beni intermedi. Su quello si può fare spending. Risparmiassi il 10% sugli acquisti e avresti fatto 15 miliardi di spending review. Comunque, professor Quadro Curzio, è una polemica solo politica, quella tra regioni e governo, o il rischio che paventano le regioni è reale, o invece ha ragione il Presidente del Consiglio che dice: beh, avete ampi margini per tagliare? Guardi, innanzitutto volevo fare una chiosa a quello che lei ha detto prima sugli investimenti infrastrutturali. Sono totalmente d'accordo. Se la Commissione europea ci darà quel margine di 0,3, noi avremo circa 11 miliardi da investire, di cui 6 finanziati dall'Unione europea stessa sui vari capitoli di bilancio. Teniamo conto che di questi 11 miliardi poi bisogna che si abbia davvero l'investimento e non si fermino in qualche pastoia burocratico, in qualche progetto irrealizzato e irrealizzabile. Quindi certo, qui c'è anche un problema di capacità esecutiva che non è poca cosa al di là dei finanziamenti. Detto questo, la mia impressione è che le regioni italiane non sono tutte uguali, sono regioni che hanno la capacità di spendere e di investire bene e ci sono regioni che non sono in grado di farle. Tra l'altro mi pare che ieri uno dei provvedimenti che sono stati prefigurati è un'operazione, diciamo così, più o meno contabile per evitare che un certo numero di regioni vadano in default. Ora, detto questo, vuol dire che il federalismo italiano non è un federalismo soddisfacente. Bisogna che i costi standard siano introdotti, bisogna che ci sia una geometria variabile e non tutte le regioni possono avere quelle autonomie che in astratto dovrebbero avere, ma poi in concreto non tutte le regioni hanno la capacità di spesa e di risparmi che sono necessari per il buon funzionamento. E infatti adesso andremo a vedere, anche poi più andrà avanti il dibattito, come saranno fatti questi tagli, perché a mio avviso il problema è quello che diceva lei: se sono orizzontali penalizzi le regioni virtuose e avvantaggi le regioni viziose. Grazie intanto ad Alberto Quadro Curzio. C'è il GR24, poi la borsa, i fondi per il sud e l'8 per mille, quindi la parte, diciamo, di soldi nostri che vanno e vengono girati dal Vaticano. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi: Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio: Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi passare ai fondi per il sud e all'8 per mille, così chiariamo una volta per tutte qual è il tema. Borsa meno 0,40% Milano, più 0,60 Parigi, più 0,40 Francoforte, Londra meno 0,75%, l'America in questo momento è invariata. E come sempre la borsa la facciamo con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Saipem meno 3,21, ma soprattutto abbiamo visto anche Prismian oggi perdere il 3,20%. Sul fronte opposto invece abbiamo Mediolanum più 3,66, Azimut più 2,70, quindi risparmio gestito, poi Campari più 1,70, Moncler più 1,50, IUX Net-a-Porter più 1,40, Luxottica più 1,20, quindi il lusso. Allora, Azimut, Mediolanum da un lato e invece Prismian e se vuoi anche Saipem dall'altro. Allora, andiamo con ordine. Azimut e Mediolanum hanno dato i conti trimestrali, sì. Quella di oggi a Piazza Affari è stata una seduta un po' dominata dalle trimestrali. Azimut chiude i 9 mesi con un utile a 208 milioni, in netto rialzo dai 123 milioni dell'anno scorso. In più c'è la promessa di una raccolta che quest'anno dovrebbe arrivare almeno a 46 miliardi, battendo il record dell'anno scorso, quindi i mercati premiano sicuramente questa prospettiva. Per quanto riguarda Mediolanum, oltre ai conti dei 9 mesi che sono andati anche in questo caso molto bene, i mercati premiano la promessa da parte della Didi Banca Mediolanum Massimo Doris di un aumento del dividendo del 2015, questo perché lo stesso Doris prevede un utile netto 2015 in netto rialzo rispetto all'anno scorso. Andiamo invece ai titoli che sono andati meno bene. Saipem cede il 3,2%, Saipem era cresciuto molto dopo l'annuncio del riassetto che lo porterà a essere deconsolidato da Eni, oggi pesa il prezzo del greggio che è sceso nuovamente sotto 46 dollari al barile, e qui insomma questo è un po' il principale motivo delle vendite su Saipem. Per quanto riguarda Prismian invece siamo di fronte a una trimestrale che era sotto in linea con le attese, la società ha anche confermato le previsioni sull'intero anno, quindi questi sono un po' i classici realizzi che avvengono su determinate società quando pubblicano i dati, ma in particolare società che magari erano cresciute nelle sedute precedenti. A questo proposito, le generali hanno pubblicato i dati, poi vediamo che nei primi 9 mesi l'utile è cresciuto dell'8,7% a 1 miliardo e 700 milioni di euro, però il titolo ha un po' sofferto oggi, meno 1,15. Ma sì, diciamo che il titolo è tutto l'anno che soffre un po', perché da inizio anno ha guadagnato poco meno del 2%, nonostante i tentativi del management di risollevare il titolo. Qui il tema è il terzo trimestre che è stato un po' sotto le attese, è stato annunciato anche comunque un utile 2015 significativamente superiore all'anno scorso, si prevede di aumentare il dividendo, tutte promesse che non sono bastate perché il mercato oggi ha penalizzato il titolo che è chiuso in ribasso. Ancora per quello che riguarda altri titoli, oggi Telecom realizzi meno 1,80%, c'è il consiglio di amministrazione oggi di Telecom? Sì, sui 9 mesi, poi sicuramente c'è il tema del dossier metro, ci sono vari elementi che vengono analizzati dal consiglio di amministrazione che dura da questa mattina, comunque il titolo si sgonfia ancora dopo che era salito molto sulla scommessa che la partecipazione di Xavier Niel potesse portare a un'ebollizione del titolo, una lotta per il controllo di Telecom. Sì, tra l'altro vedo adesso che hanno sospeso le azioni ordinarie Telecom nelle contrattazioni after hour, per cui evidentemente si attendono appunto anche comunicato ufficiale. Allora andiamo ai migliori e peggiori in assoluto. Per quello che riguarda i migliori oggi, TAS più 5,60, Stefanel più 5%, poi poco altro, Sol più 4,30, fronte opposto, Mondo TV e Mondo TV France meno 16%, Crédit Agricole meno 9,40, Meteorius Capital meno 6,20, Datalogic meno 5,70%. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori Sole 24 Ore. Cerchiamo di capire adesso che cosa prevede il famoso master plan che per il Sud, il piano maestro per il Sud che il Sole ha anticipato, ossia i 95 miliardi di euro a disposizione per il nostro mezzogiorno, attenzione, da qui al 2023. Allora, Carmine Fottina del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Carmine, vediamo di capirci, perché noi sappiamo che quando si dice da qui al 2023 il diavolo si nasconde nei dettagli. Un conto è dire quanti miliardi sono all'anno, e un conto è dire che entro il 2023 ne avremo 95. Esatto. Nel master plan si legge non solo le risorse che mancano, il commento che ho fatto questa mattina per i 100 secondi di Radio 24 trasmessi anche su Radio Dimensione Suono citava tra l'altro il fatto che noi anche sto giro non riusciamo a utilizzare tutti i fondi di coesione per il nostro sud, quelli che ci dà l'Europa, e ne mancano 6 miliardi da utilizzare da qua al 31 dicembre. Il calcolo vuol dire che dovremmo riuscire a impiegare 100 milioni di euro al giorno, domeniche e sabati incluse, per arrivare a utilizzarli. Chiaramente non ce la faremo. Questa è l'incapacità anche e soprattutto delle amministrazioni regionali e locali del nostro Mezzogiorno di utilizzare i soldi che ci dà l'Europa, ma ce li dà anche perché, ma noi nel frattempo siamo uno dei più grandi contributori dell'Europa, quindi faremo bene a utilizzarli. Questi 95 miliardi sono sulla carta? Ecco, c'è bisogno di alcuni chiarimenti. Questi 95 miliardi innanzitutto non sono risorse nuove, ovviamente. Il governo cita nel suo master plan 95 miliardi che si riferiscono al complesso della cosiddetta programmazione 2014-2020. Sono risorse europee, cofinanziamenti nazionali, tutte risorse già esistenti che l'Italia può spendere entro il 2023, perché le regole europee dicono che la programmazione che scade al 2020 prevede una possibilità di spesa fino ai 3 anni successivi, quindi fino al 2023. Quindi parliamo di una cifra enorme che ovviamente bisognerà dimostrare di saper spendere, perché come dicevi nel 2007-2013, quindi la programmazione precedente ormai in scadenza, le cose non sono andate benissimo. C'è stato sicuramente un recupero con l'ultimo governo che ha portato la spesa all'80%, però da qui al 100% entro fine anno, come dicevi tu, ce ne passa in buona sostanza. E quindi la sfida per la prossima programmazione è, diciamo, portare a compimento questi 95 miliardi per i quali il governo intende sottoscrivere degli accordi, dei patti, cercare di fare dei progetti in qualche modo concreti con le regioni e le grandi città che poi alla fine dovranno spendere questi soldi, per evitare gli errori del passato, quando evidentemente c'era dispersione, non c'era neanche sinergia fra livello centrale e livello locale, e le risorse non venivano spese o venivano spese ma in maniera piuttosto inefficace. Di qui l'idea appunto di siglare 15 patti, 15 grandi accordi con le amministrazioni territoriali entro dicembre, quindi ci sono 2 mesi per preparare questi patti, che poi saranno il vero cuore, la vera essenza del piano per il Sud, perché il master plan definisce la cornice, poi i contenuti li daranno questi 15 accordi. I 15 accordi a cui ti facevi riferimento, a cui ha fatto riferimento anche il governo, ha detto però il ministro, se ho ben visto nel master plan c'è scritto che già 7 saranno per il 2016, l'effetto di leva potenziale è in grado di mettere in gioco solo nel 2016 investimenti per oltre 11 miliardi, di cui 7 per il Mezzogiorno, ma a patto che si facciano i progetti, Carmine, perché esatto. Questi sì, per fare un'ulteriore distinzione, i 7 miliardi di cui ha parlato Padoan, che sono citati anche in questo master plan, derivano dalla cosiddetta clausola di flessibilità sugli investimenti dell'Unione Europea, concessa ai paesi, clausola valida sul deficit, concessa ai paesi che cofinanziano investimenti con dei fondi europei oppure investimenti del cosiddetto piano Juncker. E in quest'ambito l'Italia ha, diciamo, un bonus da giocare tra fondi europei e fondi nazionali di circa 7 miliardi per il Mezzogiorno, su 11 miliardi per tutto il territorio nazionale, di cui 7 per il Mezzogiorno. Però questo bonus va speso entro il 2016, quindi è una sfida nella sfida, diciamo, per usare questo gioco di parole rispetto a quello che dicevamo prima, perché si tratta di spendere tassativamente 7 miliardi entro il 2016, altrimenti questo bonus appunto va disperso. Quindi significa presentare anche nell'ambito di questi 15 patti di cui dicevamo prima dei progetti già cantierabili, in grado di partire immediatamente, quindi di consentire non solo un formale impegno ma una vera e propria spesa già entro il 2016. Insomma, è chiaro che i precedenti non ci consentono un particolare ottimismo, però c'è da dare ovviamente un bonus di credito al governo che si sta spendendo, almeno come buona intenzione, su questo piano, e sperare che effettivamente nel 2016 si riesca a cambiare passo. Grazie, staremo a vedere. Io non sono molto fiducioso sull'utilizzo dei fondi di coesione, dei fondi per il Sud. Grazie intanto anche al collega Carmine Fotina. Traffico e poi l'otto per mille. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, parliamo dell'8 per 1000. Mi scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma la vuole smettere. Ah, una mi scrive: attenzione, potreste anche aver ragione, ma attaccando il Vaticano fate un favore all'Islam, ai fondamentalisti islamici. No, guardi, questo assomiglia un po' al principio per cui si parlava della mafia, mutatis mutandis, si faceva un danno alla Sicilia. Intanto noi, come Radio 24, l'ISIS, a differenza di altri media, non abbiamo mai chiamato lo Stato islamico, ma i terroristi islamici, e ci tengo a ribadire questo concetto. No, ma si sta ragionando, e ho cercato di porre il discrimine ieri. I soldi vaticani, essendo il Vaticano uno Stato sovrano, sono tutti fatti suoi. Vale anche per l'appartamento di Bertone, che appartiene al Vaticano. Poi uno può commentare, come fedele se lo è, l'utilizzo di questi 300 metri quadri di appartamento, le tre suore che gli danno una mano in casa, vabbè, mi sembra un po' tante, tre per una casa, che mi aiutano, oppure le spese fatte dal cardinale australiano George Pell, 500.000 euro in un anno, anzi meno, in sei mesi, da luglio 2014 a gennaio 2015, 47.000 euro per mobili e armadi, 2.500 euro in sartoria, 4.600 euro per un sottolavello. E gli appartamenti di altri cardinali, William Levada, quello arrestato alle Hawaii per in stato di ebbrezza, che ha 500 metri quadri in Borgo Pio, i 500 metri quadri a ridosso di via della Conciliazione per il canadese Marc Ouellet, o i 420 metri quadri per il cardinale Sergio Sebastiani. Ma sono tutti fatti loro. Altra cosa è capire come funziona l'8 per 1000. Allora, l'8 per 1000 nasce nel 1990, è la parte dell'IRPEF che lo Stato italiano dà alle confessioni religiose con cui ha stipulato un accordo. L'anno scorso hanno buttato come gettito 1 miliardo e 270 milioni, ripartiti in 1 miliardo e 55 milioni, l'82% alla Chiesa Cattolica, poi 170 milioni allo Stato italiano, e poi la Chiesa Evangelica Valdese 41 milioni, e poi che è il 3,2%, e poi poco altro, il resto, le comunità ebraiche 5 milioni e mezzo, Chiesa Evangelica Luterana 4 milioni, Avventisti del Settimo Giorno 2 milioni e 2, Assemblea di Dio in Italia 1 milione e 400 milioni. La cosa interessante è che nel giro di 24 anni, da quando esiste l'8 per 1000, i trasferimenti a favore della Chiesa Cattolica sono aumentati del 400%, passando da 200 milioni a 1 miliardo e 55 milioni. La Corte dei Conti però ha evidenziato qualcos'altro, e cioè una gestione di cui è colpa lo Stato italiano anche dell'8 per 1000, opaca e senza controlli. Cosa succede? Intanto quelli che di noi che non esprimono alcuna scelta sono almeno uno su due, il 52% dei contribuenti. Beh, quella parte, quella che non, quando io non scelgo, viene ripartita questa parte tra le diverse confessioni religiose in funzione di come si sono espressi gli altri contribuenti, e questo è opinabile. Io posso non scegliere, pur non essendo né cattolico, né ebreo, né valdese. E quindi questo va, diciamo, a premiare ulteriormente le confessioni religiose. La parte che resta allo Stato è così bassa perché tu devi esplicitare che resta allo Stato. Beh, io vorrei vedere una cosa un po' diversa, che se non esplicito resta allo Stato, se esplicito va alla confessione religiosa a cui io sono aderente o in cui credo, no? È un po' strano che se non esplicito l'8 per 1000 quell'anno lo Stato decide di girarlo comunque alle confessioni religiose, ma perché? E poi c'è il tema dei controlli. Non esistono verifiche, scrive la Corte dei Conti, di natura amministrativa sull'utilizzo dei fondi erogati alle confessioni, nonostante l'ancora non soddisfacente quantità di risorse destinate agli interventi caritativi, cioè il fatto che per esempio la Chiesa Cattolica su 1 miliardo e 50 milioni ne usi 390 milioni per il sostentamento al clero. Ecco perché uno dice parte sono soldi nostri. Esigenze di culto 430 milioni, interventi caritativi solo 245 milioni. Carlo Marroni del Sole 24 Ore, buonasera. È il vaticanista del Sole 24 Ore. Senti Carlo, è corretto dire, insomma, questa è l'unica parte in cui noi possiamo come cittadini italiani interrogarci sui fondi che usa lo Stato sovrano e autonomo del Vaticano, magari criticando il fatto che lo Stato abbia deciso che quando non faccio una scelta va direttamente alle confessioni religiose e non controllando come li usano questi soldi o c'è dell'altro? Allora, anzitutto ci sono due cose da dire velocemente. I soldi, la Corte dei Conti ha fatto il check sulla dichiarazione dell'anno scorso. Diciamo, quest'anno sono scesi sotto il miliardo perché c'è stato un calo del 2%. Questo è un fatto, diciamo, concreto. Primo. Secondo, questi soldi non vanno al Vaticano, ma vanno alla Chiesa italiana. Il Vaticano è come se andasse uno Stato estero. Certo. Questi sono proprio fatti dalla Chiesa italiana, quindi delle diocesi, delle parrocchie. Questa è l'altra questione. E sì, è giusto perché è una cosa che afferisce direttamente a noi italiani. Quindi, diciamo, come cattolici uno può dire qualcosa sull'appartamento di Bertone, secondo me, oppure lo può dire a qualsiasi titolo. Però, diciamo, il tema è, come giustamente dicevi te, per noi cittadini italiani è l'8 per mille, quello che ci riguarda. Il meccanismo della ripartizione fu studiato nell'84, quando ci fu la revisione del concordato, revisione che fu fatta da variati, diciamo, politici che poi sono stati in auge per molti anni, e così quindi dovrebbe cambiare la legge, anzitutto. Quindi non è che è arbitrario il fatto che la ripartizione avviene con questo metodo per cui la torta si ripartisce in base alle firme messe, non in base alle firme non messe, così è. E quindi sì. Poi c'è un'altra cosa da dire che volevo aggiungere: i fondi destinati alla carità quest'anno sono aumentati del 50%, del 40% circa, e sono diminuiti quelli per il sostentamento del clero. E questo può essere la linea di Papa Francesco, che sappiamo che abita in 50 metri quadri. Non so, io non voglio fare paragoni impropri, però quando il leader massimo, e questo è il riferimento massimo, dà un esempio, di solito le strutture gerarchiche, perché, insomma, possiamo chiamarla come vogliamo, ma quello è il potere temporale del Vaticano e della Chiesa Cattolica del Vaticano, le strutture gerarchiche si adeguano di solito, cioè si è visto. Invece Papa Francesco sta in 50 metri quadri, devo dire che hanno esigenze più grandi gli altri, alcuni altri. Cardinali. Qualcuno mi ha criticato perché ho paragonato Bertone a Scaiola, che è stato assolto. Ho capito, ma di Scaiola citammo solo quella frase ridicola: non sapevo che mi avessero comprato la casa, come quando Bertone dice non sapevo che avessero prestato fatture alla Fondazione Bambin Gesù per 200.000 euro e che il Bambin Gesù le avesse pagate. Mi sembra strano. Tutto qua, uno presenta una fattura, tu la paghi senza neanche avvisare Bertone. Detto questo, a parte poi la polemica ICIMU sui luoghi non di culto ma adibiti, diciamo, ad altre funzioni, non mi sembra che noi, restando nel principio libera Chiesa in libero Stato, che vale in un senso e anche nell'altro, quindi vale anche nel non interferire negli affari vaticani, possiamo commentare molto altro, Carlo? Sì, allora, diciamo, questi giorni sta accadendo di tutto e quindi, diciamo, potremmo continuare per ore. Vorrei solo dire una cosa, finire il tema dell'8 per mille. Quando si parla di sostentamento del clero e di esigenze di culto, uno non pensiamo a, cioè, pensiamo, sono sostanzialmente soldi che vanno alle parrocchie, sì, vanno ai centri di accoglienza dove vanno gli immigrati. Questo è l'80% di quello che si usa per l'8 per mille. Poi c'è anche lo stipendio ai preti, certo, però i preti che stanno in parrocchia in qualche modo devono vivere. Cioè, io credo che anche i laici, anche gli atei, se chiude la parrocchia in un quartiere, specie di periferia, no, ma infatti, secondo me, è quello che penso io. Ma, ecco. Certo, ma questo poi sta, vedi che poi sconfiniamo nell'idea di culto religioso. Però io sto solo dicendo: manteniamo la distinzione laica, che non vuol dire atea, vuol dire laica, cioè che quando uno parla dello Stato italiano lo parla al di là della sua confessione, ne parla al di là della sua confessione religiosa. E lo Stato Vaticano fa quello che vuole dentro le sue mura. Casomai sarà lo Stato italiano che deve modificare la legge e chiedere maggiori controlli su come vengono utilizzati i soldi e fare in modo che, se io non metto la croce sull'8 per mille, in automatico questo non vada alle confessioni religiose ma resti allo Stato italiano. Mi scrive un ascoltatore: bravo Barisoni, hai giustificato anche Bertone. Vabbè, se lei ha capito questo, cosa devo dirle? Cosa voleva che dicesse su Bertone? È ovvio che personalmente il giudizio non può che essere negativo, anche quando uno dice ho tre suore che mi aiutano per un appartamento di 300 metri quadri, ma chi ce le ha tre suore che ti aiutano? Io sapevo che la perpetua era storicamente una, non conoscevo ancora le perpetue per l'appartamento del cardinale. Vabbè, Bertone da un punto di vista del cittadino è indifendibile, ma se la vedrà con il Vaticano, con il suo Stato, non con il mio Stato. Grazie anche a Carlo Marroni, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi, e già venerdì avremo di nuovo la classifica poco invidiabile di sprechi della pubblica amministrazione. Radio 24, la passione si sente.